Roma sia una grande città. Spenderebbe bestie più più che non l'acqua. Come finirà? No, non lo so. Gente non ama, fanno qua baccama. Ma i vecchi e l'uomo mollano il timone. Qualche niente struzzi ci rifamano. Il bel paese fusione. Carabinieri, la fuoco pazzetta. Vai la parla di sempre in sproporzione. Qua qualche pisciolino, qua il pepe di giore. Quale papà male, le libertà. Le papà papale, le papà papale. Le papà papale, le papà le libertà. Le papà papale, le papà le libertà. Le papà papale, le papà le libertà. Le papà papale, ma ecco il padrone, il patolone.